Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, è il momento delle storie, i fatti e i personaggi della nostra Italia in controluce che oggi parte con un ritratto femminile. È un magistrato impegnata nella lotta alla mafia, è nata a Sanremo in Liguria, oggi viene premiata dalla regione con una onorificenza nel giorno della festa della donna. Venne definita un eroe dal ministro della giustizia per aver scelto liberamente a un certo punto della sua carriera di tornare dalla Riviera Ligure in Sicilia, a Gela, in uno dei luoghi più difficili per un magistrato. Lei invece parla di un lusso che si è concessa. L'ha intervistata Andrea Ferro. Anna Canepa faceva parte di quel gruppo di giudici ragazzini che valicò la paura e come primo incarico andò ad insediarsi nelle procure siciliane, attestate in prima linea sul fronte della guerra alla mafia. Lasciò Sanremo e il sole della Riviera dei Fiori per addentrarsi nelle atmosfere torride di un posto di frontiera, quale era la procura di Caltagirone. Se ne andò dopo 3 anni e un'autobomba che Cosa Nostra aveva già confezionato per lei. L'attentato fu sventato in extremis grazie alle rivelazioni di un pentito. Nell'ottobre del 2008 Anna Canepa ha deciso di tornare in Sicilia, 6 mesi da applicata alla procura di Gela. Un magistrato di grande valore, un esempio per tutti, dirà di lei il ministro della giustizia Alfano. Ecco come Anna Canepa racconta quella scelta. Alcune procure della Repubblica d'Italia, soprattutto al sud, erano in grande sofferenza per totale mancanza e presenza di magistrati, soprattutto sostituti procuratori. Come si usa nell'ordinamento, questi uffici fanno richiesta di applicazione. Io ho avuto un'esperienza assolutamente felice 20 anni fa, appena entrata in magistratura, e covavo nell'anima il desiderio di rifare questa esperienza. Poi chiaramente la vita ti porta a fare altre scelte. Nel 2008 avevo una felice contingenza familiare, stavano tutti bene in famiglia, io non ho figli, e mi sono consentita, io lo dico, questo lusso di poter andare applicata in questa sede. E lei ha sempre detto di non sentirsi un eroe, semplicemente di aver scelto così per spirito di servizio, ma se in molti uffici giudiziari di provincia, tanto più al sud, oggi mancano i magistrati, la colpa di chi è? Il problema ordinamentale, la novità è che dal 2006 col nuovo ordinamento giudiziario non è più previsto che i giovani magistrati, quello ero stata io 20 anni fa, vadano nelle procure della Repubblica. Adesso c'è stata una deroga, ma la regola era questa, quindi già prima c'era un problema comunque su questi posti. Non a caso appunto 20 anni fa, con l'entrata in vigore del nuovo codice, noi venivamo mandati in massa in questi posti, quindi con il pregiudizio che fossero posti particolarmente difficili e rischiosi. Non solo un pregiudizio, ma la storia stessa poi ha raccontato che cosa succedeva in questi posti. Penso a cosa è successo al giudice Livatino, che era considerato un giudice ragazzino, e a tanti altri colleghi. Continuo a considerarlo un gesto non coraggioso. Dottoressa Canepa, al suo ritorno in Sicilia dopo 15 anni ha trovato una mafia cambiata? 20 anni fa ci eravamo trovati veramente nel momento massimo di attacco del potere mafioso allo Stato, con tutto quello che ne era conseguito. Questi 20 anni non sono passati in vano, ci sono state le stragi, c'è stata una seria politica di aggressione alla mafia, c'è stata la stagione dei pentiti. Oggi si parla più di 'ndrangheta che di mafia, quasi che la mafia abbia perso forza rispetto alle altre organizzazioni criminali. Dopo le stragi c'è stata una particolare attenzione a chi quelle stragi aveva commesso, e quindi una particolare aggressione con successo a quella che era stata Cosa Nostra, la politica stragista di Cosa Nostra. Sicuramente l''ndrangheta, che è un'organizzazione pericolosissima per le connotazioni che ha, base familistica, orizzontale, che si rinnova continuamente grazie appunto alla rigenerazione generazionale, nel senso che i figli sostituiscono i padri, ha potuto agire più indisturbata, ma non perché non si volesse, non ci fosse la volontà, e che chiaramente c'è stato moltissimo impegno nella fase post stragi. Mafia, 'ndrangheta, camorra, per lo Stato sarà una lotta infinita? Penso che tutti si speri, si auspichi che non sia una lotta infinita. Diceva Giovanni Falcone che, come tutti i fenomeni umani, anche la mafia ha un inizio e quindi necessariamente deve avere una fine. Questo è l'auspicio di tutti. È chiaro che ci vuole molto impegno dei singoli, delle forze dell'ordine, dei magistrati e soprattutto una seria volontà politica. Italia in controluce.